Linee d'ombra di Matteo Caccia. Linee d'ombra è un programma che racconta storie, le racconta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15, e il sabato fa questo piccolo speciale di una mezz'ora in cui vi racconta solo una storia particolare, o meglio, 5 episodi di un'unica storia. La storia di Antonina Zoti, in questo caso, figlia di una delle prime vittime della mafia del secondo dopoguerra. Siamo nella Sicilia del 1946, in un paese che si chiama Baucina. Lei rimane orfana di padre perché il padre viene ucciso, sparato alle spalle con 5 colpi di pistola. Ha cercato di aiutare in quanto sindacalista, di aiutare degli agricoltori a recuperare e avere più, diciamo, equità nella suddivisione della terra, ed è stato punito. Lei cresce nella miseria più totale insieme al fratello e alla madre, che lottano anche contro l'onta, la vergogna, l'assurda vergogna di essere figli di un morto ammazzato, perché se fosse stato zitto tutto questo non sarebbe accaduto. Ebbene, vi stiamo raccontando questa storia in questa settimana, e quindi in questi 5 episodi, brevi episodi che sentirete raccolti e raccontati da Mauro Pescio. Antonina ci racconta come e con quale difficoltà deve andare a scuola perché lei vuole diventare maestra, con quale difficoltà sua mamma fa di tutto per aiutarla. Chi aveva scelto il collegio aveva tenuto in considerazione proprio la distanza, pensando di fare cosa avrei dalla mamma, che essendo vicino poi la mamma poteva venirmi a trovare anche relativamente spesso. E così mamma mi preparò tutto quello che c'era da preparare, non molto veramente, invece nell'altro collegio avevo un corredo, invece qua niente, perché ma niente perché loro ti davano i grembiuli, loro ti davano le scarpe che erano tutte uguali per tutti, loro ti tenevano là perché tu offrivi dei servizi, quindi lavavi i piatti, passavi lo straccio, non io, sto parlando in generale, passavi lo straccio e in cambio ti tenevano lì, ti davano un piatto di minestra. Nel 1952, ad anno scolastico inoltrato, mi trovai in collegio a Misilmeri. Avevamo scelto questo collegio per la distanza da casa e soprattutto perché avevamo avuto l'intercessione di una parente di un insegnante di Pinuccio. Fu lui a far sapere alle suore che io ero una bambina che era lì per studiare, e siccome i parenti dell'insegnante erano tenuti in considerazione in paese, le suore ritennero giusto trattarmi con attenzione. Ma tutto questo io non lo sapevo. L'ho capito dopo, quando mi ritrovai a mangiare in sacrestia, da sola, oppure addirittura a dormire in una stanzetta singola. A me questa cosa non piaceva. Ero solo una bimbetta di 10 anni, io da sola mi spaventavo e volevo la compagnia delle altre bambine. Pregai le suore di non tenermi isolata, ma le cose, anziché migliorare, peggiorarono. La sporcizia in cui erano costrette quelle bambine era incredibile. Mangiavamo su tavole di legno nudo con i piatti di alluminio, le lenzuola delle camerate puzzavano di urina ed erano punteggiate di pidocchi. Erano bambine che non avevano il papà, figlie di prostitute, figlie di donne poco presenti nella loro vita, più che altro era qualche nonna che veniva a fare loro visita, qualcuna di loro a fare visita. Le suore davano loro ospitalità in cambio di lavoro, le sfruttavano come cameriere, in cucina e come lavandaie. Certe volte le vedevo correre contente verso una stanza dove cercavano di impossessarsi di un paio di scarpe, se non accoppiate, almeno simili. Poi indossavano un grembiule nero. Erano contente perché andavano fuori, ma andare fuori significava accompagnare il funerale. Le suore, in cambio di denaro, affittavano quelle ragazzine per recitare le preghiere e improvvisare lamentazioni durante i funerali. Ma la cosa più grave per me era che nessuno si preoccupava di prepararmi l'esame di ammissione alla scuola media. In quell'ambiente non è che le bambine studiassero. Dentro il collegio c'era la scuola, ma era una scuola per le esterne. Quando veniva la mamma, io le dicevo: «Mamma, qua io non ci voglio stare più», perché là dentro soffrivo soltanto. Che ci stavo a fare lì? La mamma mi voleva a casa, io volevo stare a casa, allora tanto valeva. Le scrissi delle letterine che diedi a una mia compagna di classe. Il papà andava a vendere delle stoffe a Baucina e le recapitava alla mamma. E la mamma venne un giorno, è pronta a prendermi, però mi disse anche che, uscendo da questo collegio, tu non avrai più diritto ad essere trasferita in un altro collegio, mentre se tu rimani avremo diritto ad un trasferimento, ma è che se no tu risulti essere demissionaria e quindi, diciamo, non avrei potuto più godere. E questa cosa mi fermò, mi bloccò. E come? Che significa che non posso più studiare, non posso fare la maestra? Mi disse: Gioemia, resisti ancora resistiamo ancora un poco, finisci l'anno scolastico, durante l'estate già da ora io faccio domanda di trasferimento per il collegio e vediamo che cosa succede. Tu l'anno prossimo in ogni caso qui non ci tornerai più, o in un altro collegio o a casa, ma sicuramente qua non verrai più, però dobbiamo tentare. Io rimasi in collegio fino alla fine dell'anno scolastico. Durante l'estate venni trasferita ad un altro collegio, a Monreale. E lì studiai, feci di nuovo la quinta elementare e poi le scuole medie. Nonostante fosse tutto diverso, anche a Monreale mi fu riservato un trattamento un po' differente rispetto alle altre ospiti. Tipo paragonale proprio. Monreale era un collegio, quello era un brefotrofio di scadentissimo. Senza che le suore non dovevano permettere queste cose, non dovevano permettere a quelle bambine di vivere così. Monreale era un collegio di educande, figlie di papà, assistite, riempite di coccole, di attenzioni da parte dei familiari, ma anche da parte delle suore. Certo. O meno coccole avevano per me. Con me erano misurate, nel senso che io ero una bambina brava, ero una bambina studiosa, non le facevo certo sfigurare davanti a niente, educata, ma comunque ero figlia di un sindacalista comunista ucciso dalla mafia, mafia di cui la Chiesa non ammetteva l'esistenza e che all'occorrenza era capace di fare dei doni consistenti alla Chiesa. A quelle stesse suore regalava il confessionale, regalava delle panche o regalava un ostensorio. Loro proprio non volevano, tra le loro educande, la figlia di un sindacalista comunista. La madre superiora un giorno mi chiamò e mi disse: «Antonina, devi scrivere a tua mamma che qui puoi rimanere solo se hai la divisa, altrimenti qui non ci puoi restare». Scrissi una lettera alla mamma spiegandole cosa stava accadendo. Mamma lesse la mia lettera e iniziò a cercare una soluzione. Andò direttamente a Palermo, al Palazzo della Regione, dove avevano accettato la mia pratica per il collegio. E mamma, così dopo un'anticamera lunga ore, era stata ricevuta da un tizio il quale aveva preso questa, lei con la lettera era andata, lui aveva preso questa lettera, l'aveva letta, se l'era messa in tasca e aveva detto alla mamma: va bene signora, non ci preoccupi, niente, non è che le aveva dato speranza, così, aveva detto soltanto questo, aveva preso la lettera in consegna. Passò qualche settimana e un giorno venni chiamata in parlatorio. C'erano tutte le suore e tre uomini che mi invitavano ad avvicinarmi. Un signore mi disse: «Tu sei Azzotti Antonina?» E poi disse: «Io al tempo dell'omicidio di Niccolò Azzotti ho avuto in mano le carte. Tra tutti gli omicidi c'è stato, ha fatto una vittima innocente, questo è Niccolò Azzotti». Io dicevo: «Ma chi è questo?» Ma intanto, sai, mi sentivo così orgogliosa a sentire questa frase, la prima volta che sentivo parlare in questi termini di mio padre. In quel momento io fui orgogliosa, parlava di vittime innocenti, avrei voluto che tutta Baucina ascoltasse quelle frasi. Poi mi guardò al polso e mi disse: «Vedo che tu non hai un orologio, ti piacerebbe averne uno?» E io dico: «Sì, lo avrai». Poi lesse la lettera della richiesta alla mamma, quella della divisa, e mi disse: «Non ti preoccupare, tu avrai la divisa e quindi resterai in collegio e avrai anche una sommetta in più per i tuoi bisogni, per quello che ti piacerebbe di più, che ti servirà quando avrai un desiderio, se lo vorrai fare. Qui ci sono i soldini per farlo». E mi lasciò 50.000 lire, 42 che sarebbero servite per la divisa, che era una divisa di grande lusso, confezionata su misura da una sartoria molto importante di Palermo. Mi lasciò 8.000 lire. Io intanto rimasi in collegio, studiai e il futuro mi si schiuse. Seppi poi che era Giuseppe Alessi, presidente della regione siciliana. La mamma mi raccontò poi come Alessi fosse venuto in possesso della mia lettera. Altro che non rispondermi. Lei si era subito data un disperato da fare alla ricerca di una soluzione. Poi, con poca speranza, aveva tentato di farsi ricevere da qualcuno a Palazzo dei Normanni, sede del governo regionale. Seppi poi che lui era il presidente della regione. Il primo presidente della regione fu che venne a trovare me proprio per quella lettera che mamma gli aveva consegnato, ma poi andò a trovare anche mio fratello, presso i Salesiani, e lo volle cresimare. A Pinuccio portò anche un flicorno, perché scoprì che Pinuccio aveva la passione della musica come papà, e quindi andò a trovarlo e poi rimanemmo, diciamo, in contatto sempre. Dopo ore di anticamera, l'usciere, mossa con passione dalla lunga attesa, l'aveva introdotta in un salone tanto bello e sontuoso che mamma avrebbe ripetuto negli anni a venire valeva la pena di vederlo prima di morire. Era stata ricevuta dal presidente in persona e a lui aveva consegnato la mia lettera. Sia a me, sia a Pinuccio arrivò poi un orologio da polso e a me anche un alberello di Natale con tutti gli addobbi. Mia madre non aveva fatto mistero di quell'incontro provvidenziale, ma in paese qualcuno insinuò che lei a Palermo coltivava un amico potente. Dopo quell'incontro a scuola mi impegnai ancora di più e quando mi si offrì l'opportunità di conseguire anche un diploma di segretaria d'azienda, non me la lasciai scappare. Mi avrebbe permesso di trovare un lavoro con più facilità in attesa di vincere il concorso di maestra. La mattina frequentavo regolarmente la scuola, di pomeriggio andavo al corso e di notte studiavo. Per 3 anni rinunciai quasi sempre alla ricreazione. Sui libri tutte le notti spesso gli occhi mi bruciavano e lacrimavano, ma studiare di notte mi consentiva di avere tutti i libri a disposizione. Di giorno avrei dovuto aspettare che le mie compagne me li passassero dopo aver finito i compiti. Io non possedevo libri, erano un lusso. Un giorno però, quando frequentavo la seconda media, Pinuccio mi telefonò dal suo collegio. Era la prima volta che parlavo al telefono ed era la prima volta che parlavo con mio fratello da quando ero anch'io in collegio. Ci vedevamo ormai soltanto a Natale e per le vacanze estive. Fu una gioia da batticuore sentire la sua voce uscire da un filo. Mi chiedeva la nota dei libri di testo, ma non volle dirmi il perché. Passò qualche giorno e io mi fui chiamata in parlatorio dalla suora. Non c'erano persone fisiche, ma c'era tutta la scrivania lì piena di libri. Erano libri per me. Corrispondevano tutti ai testi miei scolastici, c'era anche un'enciclopedia, c'era anche il vocabolario di italiano che io conservo gelosamente, un Palazzi, e c'era il vocabolario francese, il vocabolario di latino, allora alla media si studiava il latino in maniera profonda, c'erano album a disegno, penne, matite, gomme, quaderni. Io sono rimasta veramente sbalordita, dicevo, tutto questo per me, mi sembrava il dono più bello che io potessi mai ricevere. Poi capii che l'aveva fatto perché lasciò un biglietto, capii che era stato lui e da quel momento ebbi i libri, studiai sui miei libri. Mio fratello ne aveva parlato con un suo professore, il quale si era impegnato per farmi avere i libri che mi servivano. La mamma, prima di venire a trovare me, era già andata da Pinuccio e mi portava i suoi baci, le caramelle che lui aveva raccolto per me durante tutto il mese. Mi raccontava sottovoce dei maialini, delle galline, di quello che lei faceva e io, naturalmente, le parlavo della scuola. D'estate, finalmente, ci ritrovavamo tutti e tre insieme. Linee d'ombra. È davvero una storia di un'altra epoca, sembra arrivare da secoli e secoli fa, questa storia che invece è di poco più di 65-70 anni fa, la storia di una famiglia in totale miseria che però lotta con una dignità incredibile. Antonina ci racconta dei passaggi di scuola e soprattutto alla fine, finalmente, dopo tanta sofferenza, tra pochissimo arriverà anche un po' di gioia. Un pomeriggio d'estate, approfittando di una mia custodia un po' distratta, un tizio con una manciata di fave era riuscito ad adescare la nostra scrofa e l'aveva rinchiusa nella sua stalla. Essendoci accorte che Catarina non faceva ritorno nel suo pagliericcio, la cercammo in lungo e in largo, non solo per le vie del paese, ma anche nei dintorni. Però di Catarina nessuna traccia. Catarina noi la custodivamo proprio come un membro della famiglia con le stesse premure, perché su lei scommettavamo. Quindi una volta questa Catarina non si ritirò la sera e noi non potevamo certo far finta di niente, eravamo disperate. Siamo andati in giro per il paese, per le strade, nelle periferie, chissà se fosse appartata, allontanata, mangiava a fare qualcosa distratta, non lo so. Anche a chiamarla, c'era un verso che la richiamava, ma di lei nessuna traccia, non si vedeva, non si sentiva, e siamo tornati a casa. Eravamo disperate, vedevamo sfumare i nostri introiti, c'erano da pagare le tasse all'esattoria comunale, da dare i soldi a Mastro Tanino, da comprare un vestito per me per la festa di Santa Fortunata e da pagare i viaggi della mamma per Palermo e per Monreale. Ad un certo punto si avvicina a casa nostra la sorella della nostra vicina di casa per avvisarci. «Nini, è inutile che la cercate», disse a mamma, «la vostra scrofa è stata chiusa dentro da qualcuno». Questo significava che l'avevano rubata. Quella signora ci disse dove era, disse che era vicino a casa sua, dove lei abitava, ed era sicura di quello che stava dicendo perché lei stessa aveva assistito alla scena. Un suo vicino di casa aveva dato delle fave alla sua scrofa. Catarì, attirata dai versi di quell'altra scrofa, si era avvicinata e il tizio l'aveva rinchiusa nel suo porcile. Lei aveva visto tutta la scena e quando venne a sapere che a noi mancava la scrofa, con la scusa di andare dalla sorella per non essere scoperta, venne a darci questa notizia. Io e mamma ci siamo fatte forza e siamo andate, mano nella mano, dietro la sua porcilaia, a verificare. Una volta là, abbiamo fatto un richiamo alla nostra scrofa, come noi riconoscevamo la sua voce e lei riconosceva la nostra. Abbiamo lanciato questo richiamo e la scrofa ci ha risposto. Eravamo felici, ma adesso volevamo riaverla con noi. Abbiamo chiamato lui è dovuto scendere e ha detto: che volete? Vediamo la nostra scrofa. E che c'è da solo con voi, che c'entro io? No, la scrofa è qua, ci ha appena risposto. Ma che baricello? Sì, è così, apri la porta. Non poté non aprire la porta. Fece finta di non di essere sorpreso. E infatti lui aprì la porta della scrofa quando ci vide, venne accanto a noi. Noi eravamo felici, la carezzavamo, vedevamo di averla di nuovo con noi. E lui ci disse: ma io non sapevo niente, io chiudo la porta perché avevo scantato che quella mia usciva fuori, non lo so, è stata una svista, è stato... E invece non era una svista, mamma glielo disse in faccia: vergognati di me, dovevi proprio rubare la mia scrofa. E ce ne andammo con la scrofa a casa nostra, felici di averla ritrovata. No use in sitting wondering why, baby, if you don't know by now. Ain't no use in sitting wondering why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at break of dawn, look out your window and I'll be gone. Your reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. Ain't no use in turning on your light, baby. Light I never knowed. Ain't no use in turning on the light, baby. I'm on the dark side of the road. I wish there was something you do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's alright. Pino si diplomò a 16 anni, inizialmente trova lavoro come tipografo a Trapani, ma dopo qualche mese tornò a Palermo, dove lo assunse una ditta di arti grafiche. Per frequentare l'istituto magistrale di Palermo cambiai collegio, ma durò soltanto un anno perché nel frattempo mamma pensò di lasciare Baucina e trasferirsi in città. Niente, abbiamo lasciato. Quel poco che avevamo noi ce lo siamo portati. Fino a cominciavo a lavorare, per noi era veramente la cosa a cui più ci teneva, a cui non eravamo abituati. Dopo 8 anni di distacco non ci sembrava vero ritrovarci tutti e tre insieme. Pino lavorava fino a sera inoltrata, offrendosi per lavoro straordinario in varie aziende tipografiche. Presto nell'ambiente fu conosciuto e apprezzato per la sua professionalità. I suoi guadagni, inizialmente piuttosto modesti, costituirono per noi il benessere. Finalmente c'era un capo famiglia di 17 anni che, oltre a mantenere me agli studi, provvedeva a tutte le nostre necessità. Tra l'altro mi riforniva l'armadio di bei vestiti, incoraggiandomi a comprarne di nuovi e compiacendosi pure nella mia ricerca dei dettagli più alla moda. Avere un compenso dal lavoro che Pino prestava con grande generosità era per noi una cosa. La mamma non aveva mai amministrato dei soldi provenienti da un lavoro, insomma, per noi è stato un sogno. Pino poi si impiegò presso le arti grafiche della regione siciliana, che erano condotte, insomma, da un privato, però un lavoro sicuro e anche ben retribuito. per noi non abituati ad avere un soldo appunto dal lavoro, lui non si risparmiava e faceva lo straordinario in più posti, andava la mattina e tornava quella sera alle 10, alle 11, con l'ultimo mezzo pubblico che c'era perché non avevamo ancora la macchina ed era difficile poi arrivare a casa, a volte lo veniva anche a piedi perché i mezzi non c'erano più, perché lui lavorava fino a tardi. Poi invece ci siamo comprati la macchina, le cose sono migliorate. Mio fratello voleva che ad amministrare i suoi guadagni fosse la mamma, così le restituì un ruolo di madre affettuosa e di donna liberata dall'angosciosa ristrettezza. L'estrema durezza delle condizioni in cui era stata gettata aveva represso la sua naturale espansività, le aveva reso l'animo vigile e spesso rigido, impegnata com'era nella lotta per la nostra sopravvivenza. Aveva soffocato la spontaneità e le piccole manifestazioni d'affetto. Non c'era mancato il suo amore, però avevamo dovuto fare a meno della sua dolcezza e ne avevamo sofferto tutti e tre. La mamma assunse il proprio ruolo con rinnovata serenità. Non doveva più amministrare ciò che mancava, ma qualcosa che esisteva concretamente, cioè lo stipendio di mio fratello. Non lo fece mai con leggerezza o disinvoltura, piuttosto come una formica. In 10 anni di rigorosa ed equilibratissima amministrazione riuscì a mettere da parte quanto bastava perché Pino, che intanto si era fidanzato, acquistasse per sé un appartamento. Negli anni 60, oltre alla televisione, al frigorifero, alla lavatrice e a tutte le comodità che la crescita economica portava nelle case degli italiani, noi avevamo anche l'automobile e non erano in moltissimi a possederla. Grazie ancora ad Antonina Zotti, grazie a Mauro Pescio che raccoglie questa storia per noi, grazie a quelli che rendono possibile questo programma, che sono Anita Panizza, Luca Micheli e Paolo Corleoni. Voi mandateci delle vostre storie, storie che abbiano a che fare con un confine, con una linea d'ombra. Se volete invece recuperarvi la storia seriale che vi raccontiamo, quelle che avete sentito sono solo 5 episodi, ma ce ne sono altri 15 solo per Antonina Zotti e poi ce ne sono un sacco di altri. Abbiamo raccontato storie seriali per tutta la stagione, li trovate sul nostro sito radio24.it alla pagina di Linee d'Ombra e lì trovate tutto. Intanto godetevi la domenica e noi torniamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!